nascondermi mai il tuo sorriso, che è pane per i miei occhi il tuo viso. Non nascondermi mai i tuoi tormenti, che anche le cicale ascoltano, le senti. Donami le ali dei tuoi pensieri, quelli puri ma anche quelli neri. Ne farò tesoro, ne farò vendemmia, ne farò concime per la mia vigna. Lascia aperta la porta del giardino, vado a fare un po' di legna per il camino, che la notte sta scendendo a grandi passi e non vorrei perdere il caldo dei tuoi occhi. Donami le ali dei tuoi pensieri, quelli puri, ma anche quelli neri. Ne farò tesoro, ne farò vendemmia, ne farò concime per la mia vigna. Sarò qui al tuo ritorno, sarò qui estate e inverno. Aspetterò anche una vita intera, ti aspetterò, amore, stai serena. Donami le ali dei tuoi pensieri, quelli puri ma anche quelli neri. Ne farò tesoro, ne farò vendemmia, ne farò concime per la mia vigna.